olio di semi, olio, quando l'hai provato non lo lasci più. Per condir, cucinare, cucinare olio di semi, olio da usare. Questo olio di semi, olio, dice il bottegaio. Questo l'uso anch'io, dice la massaia. Io ne vado matta e non sbaglia mai. Sì, mi sentite? Pronto, pronto. No, pronto. Pronto, Ada? Sì. Ci sei, Ada? Sì, mo sono qui, mo sono affacciata. Mo sono passata stamattina, non c'era mica nessuno a casa. Mo scimo ero su da Beppe a comprare la cotica. Ma qua, mo scotto, mo si avvicina l'estate, non va mica bene fare quella roba lì da mangiare. Ma fa la roba vegana. Mo su, mo per favore, vegana vegana, mo cuore vegano, mo su. Questo periodo ce l'hanno tutti con i vegani. C'è questa presa di posizione e tutti indignati contro i vegani. Avevo il microfono spento, buonasera. Oh, yuppie! Vediamo sempre il mio. Peggio, all'Accademia della Brusca andiamo sempre peggio, ci stanno influenzando le altre trasmissioni. Sì, anche secondo me. È come i ragazzini, no, quando iniziano ad avere 13-14 anni, che sono stati bravissimi, dirigenti, puntuali a scuola, poi conoscono il ripetente. Basta l'amichetto e poi la mamma dice, stai prendendo una brutta piega. Sì, quest'estate non ti mando in montagna col prete. Bene, crepasse. No, si fa dire. Per dire, via, di dire, via, che... ci mancherebbe. No, è come dire, oh, uff, accidenti. Accipicchi, acciderboli. Ecco. Quando si nasce. Sono giocata subito la reputazione, quando anche alla diciannovesima puntata dell'Accademia della Brusca, signore e signori. Buonasera. Mazza. Di che si parla oggi? Di un tema, baby, di un tema molto bello, a noi molto vicino, tant'è vero che forse non siamo più in grado di farlo, la discriminazione del linguaggio. Da cara quando mia. Nasciamo fino a quando assumiamo una competenza linguistica più o meno compiuta, completa. Bene, interessante. Quindi come i bambini discriminano una lingua piuttosto che un'altra, esatto. Nella fase, noi tratteremo un po' la fase neonatale. Massimo 5 mesi, poi dopo a noi già non ci interessa, esatto. Più. Quando in maniera sbagliata i bambini gli fate cucucu, cu, ma chi sei qui? Ta ta ta punta, e quello pensa, guarda che idiota, me lo devo portare dietro per tutta altri 18 anni. Oh bene. E detto ciò, possiamo anche iniziare, oppure vogliamo dire qualcos'altro prima? Poi vogliamo citare, che ne so, i nostri amici di Radio Wombat? Sì. Ricordare un po' di palinsesto? Ricordiamo un po' di palinsesto, che ovviamente, come i giorni del calendario, parte il lunedì, le nostre dirette alle 16.30 del lunedì, Fuoco alle Polveri, alle 21 La Revancia, musica punk a go-go, Martedì alle 19 abbiamo il rovescio della medaglia con tutto il prog minuto per minuto. Ma domando, ma va ancora in diretta questo rovescio della medaglia? Solo podcast, okay, ormai, quindi... ormai si danno un monte di arie questi prog, solo podcast, no, sì, vabbè. C'è stato il revival del prog e loro giustamente certo. Sono adeguati. Mercoledì, ora della merenda a scuola, più o meno alle 11 coccoli al silicio, alle sì. 19 soul time, alle 21 slick chic. Perfetto. 19:30-19:15, dipende dagli impegni di Nautodate. C'è l'Accademia della Brusca e alle 21 a seguire 8 Hertz. Venerdì alle 5 di pomeriggio, ovvero il 17, il Mortal Wombat, alle 21:30 Uru, il nostro bellissimo programma sulle musiche da tutta l'Africa. O dall'Africa, come direbbe, i due conduttori all'Africa. E invece Mortal Wombat, ricordiamole, di Hip Hop. Hip Hop, esatto, esatto, esatto. Neni è grande fan dell'hip hop, certo. Quindi non può non puntualizzare questa cosa. Giustamente. Ho visto proprio la saltavi così a pieppare. Perché non la vedo da qua, mentre leggo non ci vedo troppo bene. Infatti oggi sono anche occhialuta. Brava. Poi sabato alle 22:30 il nostro Tonight è live. Se riuscite a sopravvivere all'aperitivo lo potete ascoltare appunto alle 10:30. E la domenica alle 16:30 abbiamo La Fuga del Gatto, il nostro bellissimo programma di classica tema, e alle 17:30 3000 Siepi, programma che Galeazzi ci invidia sicuramente. Che in questo momento è un po' a riposo, ma sì, probabilmente riprenderà. Ci Insomma, speriamo. Più o meno il palinsesto è questo, sempre in aggiornamento. Il programma preferito del mio papà, che non guarda più dribbling e quelle cose, perché ogni tanto si sintonizza e ascolta. Wow. Ciao papà Giuseppe. Grande. Bene, bene, bene, bene. Allora iniziamo. Allora, cosa dicevamo facciamo? Di questi bimbi. Allora, vediamo dire? Un po' che finora che cosa abbiamo detto, che questi bambini fin da piccoli riescono a discriminare fra lingue diverse. Esatto. E che soprattutto, non so se l'abbiamo mai detto, non discriminano in base alla voce della persona che parla, perché quello per lui è indifferente, ma discrimina in base a dei requisiti che la lingua ha, che vedremo via via. Strano ma vero, è proprio così. Sì. E, bene, due colpi di cuffia in un solo momento, tipo lo dici tu, lo dico io, chi lo dice? Lo dico io. E potremmo domandarci poi nello specifico, come dicevamo prima, su quali informazioni i neonati si basino per effettuare questa discriminazione. E abbiamo diverse risposte che ci dà la nostra cara amica linguistica, e soprattutto la linguistica generativa, giusto? Queste sì, queste più prima ci sono delle premesse di quello che potrebbe essere, che tutti pensano che sia, ma in realtà non è. Non è proprio così. Quindi sì, sono l'ipotesi 1, esatto, ipotesi 2. Quella più banale, diciamo, che potrebbe venirci in mente, consiste nel pensare che i neonati abbiano acquisito familiarità con la lingua materna. E cioè la segmentazione del linguaggio che è prodotto dalla madre oppure prodotto anche da qualcun altro, insomma comunque di abbastanza vicino al neonato. E quindi nei compiti di discriminazione si riconoscono la lingua madre, riconoscono i neonati, riconoscono la lingua madre e notano che la lingua straniera invece è diversa. Questa è una cosa molto curiosa. In questo caso sembrerebbe non esserci nulla di specifico relativo al linguaggio, perché si tratta di una discriminazione in realtà tra uno stimolo familiare a cui i neonati sono abituati e uno stimolo non familiare, quindi sì, un qualche cosa di completamente nuovo. Un'altra delle ipotesi invece è che l'esperienza con la lingua dell'ambiente abbia lasciato la sua traccia già dopo 2 giorni di esposizione e quindi il neonato abbia un modo per sintonizzarsi sulla lingua che sente nel suo ambiente. Possiamo escludere entrambe queste due ipotesi, mm-hmm, o meglio, non sono reali, perché ci sono altre caratteristiche che invece contraddistinguono la lingua e permettono al bambino di fare quello che fa. Allora, prima di tutto, quando si parla di lingue, di fraintendimenti e di vocali, come abbiamo detto la volta scorsa, io non posso non farvi sentire lui. Famosissimo. Lopulula. Lopulula? La? Cosa? Lopulula e castello ululì. Ma come diavolo parli? È lei che ha cominciato. No, non è vero. Non esisto, è lei il padrone. Bene. Eccolo là. Casa. Bello! Mi sono sempre chiesta, non ho mai approfondito come fosse la versione originale in inglese, perché questo è un doppiaggio. Sì, di... infatti l'ho cercata, non l'ho trovata velocemente, per cui ho desistito. Perché se non la trovi subito, desisti. Esatto, glielo diciamo la prossima volta che non siamo ascoltatori, sì. Io lo voglio assolutamente sapere. È bellissimo, mi ricordo, lo sentì, perché una volta lo vidi in lingua originale e... E quasi era, mi ricordo, feci questa riflessione, quasi venne meglio la traduzione in italiano, però onestamente non mi ricordo com'era, sì, ma era interessante. Sì. Dai binari dello humor. Sì, probabilmente per pura fortuna era riuscito a rendere di più quello in italiano, però non mi ricordo cosa dice, quindi non garantisco. Il doppiaggio era di Oreste Leonello, se non sbaglio, quindi lui sapeva, dopo purtroppo è andato a finire al bagaglino, ma sapeva di cosa si stava parlando. Eh sì, sul quindi, doppiaggio non si può discutere, sì. Bene. Bene, dicevamo che che ci sono delle coppie di lingue straniere che i neonati discriminano, ma ci sono lingue che i neonati non discriminano. Esatto. Si tratta dell'inglese e dell'olandese. Incredibile. Io sono sempre convinta che sia per colpa della fonetica dell'olandese che ha questi sì, suoni. Sì, infatti davvero... poi dopo lo vediamo, ci sono proprio dei tempi dedicati e... ma non lo possiamo dire subito, Spoilerini. Ma scusa, no! Spoilerini. E io aggiungo anche, ma forse dopo lo diremo per altre ragioni, inglese e olandese, ma anche spagnolo e italiano spesso, sì. Mentre per esempio spagnolo e catalano no, vengono perché completamente hanno... distinte. Infatti. Non puoi dire perché, se no la puntata è finita. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Andiamo avanti. In questo caso però poi ci sono anche i futuri parlanti francesi a non essere in grado di discriminare tra le due lingue, proprio un retaggio evidentemente dei francesi non sono in grado di... vabbè, lasciamo stare. Il problema non può dipendere quindi dai neonati, ma risiede proprio nella proprietà di queste due lingue, cioè come dare la colpa di un qualche cosa che non funziona a un sistema... e non invece a un episodio singolo, quindi nel senso i neonati sono tanti, si comportano praticamente tutti così, per cui la colpa, diciamo, di questo fenomeno è delle lingue. È chiaro. Sicuramente. Sì, infatti quello è il nodo centrale, esatto, della discussione. Ah, l'abbiamo già snocciolato. E soprattutto i neonati sono in grado di distinguere e riconoscere, quindi discriminare, in tipo 6 battute di sillabe che lo danno un tempo come 1200 millesimi di secondo, credo. Accidenti. Quindi sono più o meno circa 6 sillabe, due parole di fila con la S non le posso dire, con la S che fischia, 6 sillabe, in un tempo di 6 sillabe loro riescono a discriminare immediatamente se quella è la loro lingua madre oppure una lingua straniera, incredibile. E questi fatti infatti ci suggeriscono poi che nel segnale acustico debba esserci qualcosa di particolarmente saliente che cattura l'attenzione del neonato. Perché in un tempo così breve per forza ci deve essere qualcosa di molto più forte di quello che abbiamo detto prima, esatto, ovvero dell'ambiente piuttosto che della madre, sì, che diventa della voce della madre che diventa più familiare. Più forte e più articolato, perché la madre potrebbe mettere un suono unico tipo ah. Esatto, sì, infatti anche quello poi dopo lo vediamo. Non mi spoilerare. Lo sapete cosa succede nella nuova edizione del Trono di Spade? Lo volete sapere? No, non ve lo dico. Io tanto non lo guardo, per me lo puoi anche dire. Allora. Quindi, in questo segnale acustico c'è qualcosa di veramente interessante. E quindi quale informazione usano questi neonati? Allora, esaminiamo diverse ipotesi che i ricercatori hanno formulato. Sono essenzialmente due. La prima potrebbe essere che i neonati discriminano sulla base di caratteristiche acustiche generali, e l'altra invece che discriminino sulla base dei suoni. Approfondiamo. Sì. Entrambe sono fondate, poi vediamo meglio. Possono essere validate, però... Sì. Però ecco, poi alla fine, poi ti senti solo a parlare di queste cose, vorresti un pubblico più vasto, ma sai benissimo che poi la linguistica non è proprio questa cosa così affascinante, a parte per esatto, noi due e per mania. ci sentiamo un po' sole. Un po' sole. E per l'appunto vediamo se questo bambino ha discriminato la differenza fra questo pezzo e quello originale. La sua versione materna. Che meraviglia. È finita così, senza un velo, perché? Ma ogni notte ti penso con me e mi chiedo se tu, anche tu come me, resti sveglia e mi pensi con te. Sono lunghe le ore se tu non sei qui. Non ha senso la vita vissuta così. Se sei sola anche tu come me, vuoi che torni da te. Sono lunghe le ore se tu non sei qui. Non ha senso la vita vissuta così. Se sei sola anche tu come me, vuoi che torni? Che torni da te. Se sei sola anche tu come me, vuoi che torni da te. Solo Bobby, Bobby solo. Avete sentito che roba? E non è finita qua, no, cara mia. Guarda, stasera, guardate, stasera è stata la Neni a preparare per bene la scaletta dei pezzi. E si sente. Della roba meravigliosa. Si sente come ci si sente sole con Bobby solo. Questa è una poesia ermetica. Vabbè, andiamo avanti. Che allora, meno. Dicevamo, per verificare questa ipotesi, no? Sì. Che avevamo detto prima dei bambini che discriminano i neonati, anzi discriminano sulla base di caratteristiche acustiche generali oppure sulla base di suoni. Allora, per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno usato un altro tipo diverso di manipolazione, ovvero hanno rimosso dagli stimoli le frequenze alte, quelle superiori a 400 Hz, hai capito, che permettono di discriminare singoli suoni, e hanno mantenuto solamente le frequenze più basse. Questa operazione, che si chiama filtraggio, lascia passare alcune frequenze ma non altre. E nel caso... È come tipo un colino che lascia passare l'acqua. E non la pasta. Trattiene la pasta. Filtra, sì, esatto. Non è un caso, si chiama filtraggio proprio per questo motivo. Ecco, e con questo filtraggio si può avere un'idea di cosa sente il neonato quando appunto sono state filtrate le altre frequenze. Ovvero, cioè, l'esempio è, se ci si immerge nell'acqua e si ascoltano due persone che parlano al bordo della piscina della vasca, non riuscirete mai a capire che cosa dicono in realtà, ma sarete in grado però di dire se stanno parlando italiano o un'altra lingua, esatto, molto probabilmente. Sì, io infatti conosco una ragazza sorda che ha un pessimo, cioè non discrimina con le protesi, ha un non, le protesi non le permettono grandi vantaggi, però con le cuffie delle amiche fanno questo gioco per cui ascoltano la musica di diverse lingue, lei indovina, fa parte tipo del team, no, indovina bellissimo. Che lingua parla, e lei no, con un po' di esperienza si è fatta questa consapevolezza incredibile. Quindi in base però la segmentazione del suono che e non si può ancora dire. Allora ma è che siamo talmente brave, intelligenti, preparate. Ci dobbiamo arrivare pian piano. Esatto. Che mi portano anche d'altro. Una bibita, che bello. Oh, grazie al nostro barman. Quindi, che dire, che tramite il filtraggio, insomma, si rimuove una buona parte dell'informazione, quindi i suoni, o meno a certe frequenze, ma viene mantenuta l'informazione prosodica. Ci stiamo arrivando. Che cos'è questa informazione prosodica? Ovvero, cosa possiamo dire? Che i neonati, contrariamente a quanto ci si aspettava, continuavano comunque a discriminare le lingue dopo questo filtraggio. Il risultato suggerisce quindi che i neonati, che non sono come noi immersi nell'acqua, ecco, discriminano tra le lingue sulla base di informazioni prosodiche. Quindi la prosodia include qualche proprietà saliente che permette al neonato di discriminare. Quali Perfetto. Sono? Cioè, la prosodia intendiamo il ritmo, l'intonazione e via dicendo. Che bello, citeremo anche la mia carissima, adorata professoressa Marina Nespoli. Ah, guarda, sì, giusto, è vero, c'è anche lei. Sì. Quindi vediamo, insomma, però, quale tra i diversi aspetti, perché la prosodia è composta da più aspetti, potrebbe essere il candidato che permette ai nostri neonati di discriminare le diverse lingue del mondo. Non so se far partire un altro pezzo oppure iniziare questo discorso. Tu io cosa dici? Ascoltare. Livello di attenzione com'è? Come ti senti? Andate a cercarvi che cos'è la prosodia, no, se non lo dai, sapete. Non facciamo far loro così tanta fatica. Li facciamo ascoltare pezzettini di musiche. Detta così sembrerebbe pezzettini di bikini, invece no. No, li facciamo ascoltare i grandi cantanti inglesi. Allora, come quello di prima, anche questa è una perla. Let's go. Sentiamo. Oh Diana, solo tu mi conquisti sempre più. Non c'è il mondo, fede a me, chi mi piaccia più di te. La ragazza del mio cuore che mi avvince col suo amor. Oh, sei tu, sei tu, sei tu, Diana. Sento il cuore palpitare nel vederti camminare, e ogni giorno accanto a me chiudo gli occhi e vedo te. Chi d'amor mi fa sognar, ogni notte sospirar. Sempre più, non c'è al mondo, crede a me, chi mi piaccia più di te. La ragazza del mio cuore che mi avvince col suo amor. nasce così? Sono pezzi corti questi, sono pezzettini corti degli anni 60. Chi era questo? Questo era Polanca, che l'ha fatta in entrambe le lingue, perché in quegli anni usava richiedere agli artisti stranieri di fare delle... cioè di rifare i pezzi in lingua italiana. Stiamo parlando degli anni 60, plausibile per come è stata l'Italia, Piove, certo. Sai che c'è una cosa molto volgare che dicono dalle mie parti su Polanca? Oddio, forse non... la voglio sapere, sì, la voglio sapere. La volete sapere, tanto non verso. Al Polanca andare a cagare, si dice, che la traduzione sarebbe, cioè... può anche andare a cagare. A cagare. No! Si dice Polanca. Mia madre anche... non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Fantastico. Sei un pozzo di saggezza. Oikos, che significa saggezza se no? Senti, la citazione della tua first lady la fai tu. Ritmo, intonazione e prosodia come elemento discriminante. L'ho introdotta così, eh. Anche la R-motion tanto, l'ho introdotta così. Stasera non lo so, non so cosa succederà dopo. La prosodia, quindi, è quel fenomeno, diciamo, linguistico che include ritmo e intonazione. Il ritmo di un enunciato è dato da cosa? Dall'alternarsi di battute accentate con battute non accentate. Abbiamo parlato, infatti, nella puntata scorsa dell'accento nelle lingue. E invece, come direbbe la professoressa Marina Nespor, che è una grandissima linguista che ha insegnato a Ferrara, a Firenze, alla Normale a Pisa, insomma, dice che invece l'intonazione o la melodia, quindi la seconda componente di questa prosodia, consiste nella ricorrenza di determinate successioni di altezze diverse, della velocità delle corde, che vengono detti tomi. Oppure i profili meglio. Intonativi, la Nespor parla più che altro di profili intonativi. Per esempio, in italiano una stessa sequenza, guarda il libro, può essere pronunciata con un'intonazione affermativa, interrogativa o imperativa. Guarda il libro, imperativo. Guarda il libro, affermativa. Guarda il libro. Mi confondo sempre anch'io quando... Stavi andando bene, scusa, ti ho interrotto, ma perché in realtà quando se poi racconto queste cose faccio sempre una fatica enorme. Questa cosa è bellissima. Maledetta! Scusa, non ho resistito. No, ma cazzo, io avevo finito, però lo sentivo che mi arrivava tipo adesso, aspetta, guarda che sbaglio l'intonazione. Ma non sono riuscita a trattenermi, volevo interromperti. Si possono fare le risate sguaiate, sì, perché... Sì, dai. Mi sono persa. Dicevamo appunto della prosodia, che non te lo dico. Va bene, basta, un po' di serietà in questa trasmissione. Ci devi parlare di una cosa bellissima, non soltanto riguardo il libro, ma... Di altre cose molto belle sul ritmo, l'intonazione, un esperimento sulle lingue inglesi e giapponesi. No, ecco, parliamo dell'esperimento che... Vi devo fare sentire una cosa bellissima. Sì. Vabbè, no, ma è sul giapponese, in realtà non c'entra nulla, è una cosa bellissima. Beh, dopo ce la dici, però. Sì, bellissima. Allora, vediamo un pochino l'esperimento. Sono stati utilizzati degli stimoli, quali erano questi stimoli? Delle frasi in inglese e in giapponese, però risintetizzati artificialmente. Primo esperimento, le frasi sia inglesi che giapponesi venivano risintetizzate e venivano sostituiti i fonemi originali con il suono A. Tutto. Quindi una frase che in inglese fa... The next local elections will take place during the winter... Si traduce in la frase in giapponese che fa Tsugi no chiko senkyo wa haru ni oka wana wareru daro. Si traduce in Non è uno scherzo. Era da mesi che sognavo di parlare di questo esperimento. Cioè, e realmente così non stiamo davvero, giocando. Cioè, se si risintetizzano queste frasi e si sostituiscono i fonemi originali con la, salta fuori davvero questa cosa. Magari con una prosodia leggermente differente, ma è quello. Questo per l'appunto, questa frequenza fondamentale che si chiama F o F0, chissà, si chiama pitch. E quindi i soggetti che sentivano queste frequenze di variava in modo continuo. Questo pitch variava in modo continuo, ma era sempre una A, perché abbiamo deciso che è una A. E in queste condizioni entrambe le frasi di queste due lingue, in questo caso inglese e francese, differiscono solamente per intonazione o melodia. Esattamente. Questo è quanto. Invece il secondo esperimento ancora più interessante, sì, qual è? Questo è fenomenale. Stesse frasi, quelle che abbiamo sentito prima in inglese e in giapponese, venivano sempre risintetizzate con una F un po' costante a 2,30, mi sembra, 2,30 Hz, e i fonemi che corrispondevano a tutte le consonanti della frase erano stati sostituiti con un suono, in questo caso il suono della S. Invece quelli che corrispondevano alle vocali sono stati sostituiti con il suono A. Quindi S consonanti, consonanti A vocali. In questo modo, il nostro fantastico secondo esperimento, che cosa ci porta a sentire? Nella frase in inglese... The next local elections will take place during the winter. Sa. Ha letta tutta, eh? Tutta, l'ho contata. Non ne ho mollato nemmeno una per strada, ve lo giuro. E invece nella frase giapponese che fa? Tsugi no chiko senkyo wa haruni okawana wa renudaro. Sa. Wow. Cosa possiamo notare? Ve lo diciamo dopo, perché tutte queste vocali insieme ci hanno fatto venire in mente che dobbiamo farvi assolutamente sentire un pezzo fantastico. Di due geni fantastici. Geni veramente, con la G maiuscola. Perché ora finalmente siamo arrivati al ritornello, vai! Texas, Tennessee, New Mexico, è Texas, Tennessee, New Mexico. Leggi. No, lascio aperto quello che c'è scritto qui. No. Il testo, il ritornello nelle canzoni deve essere sempre uno, perché il pubblico deve memorizzarlo. La quindi... canzone è mia e io faccio quello che voglio. E allora non lo chiami sbagliato. No, è sbagliato. Non è sbagliato, perché a me non serve che uno memorizzi, serve che uno enfatizzi. E quindi enfatizzi questo desiderio che il vecchio sente di trovare la libertà, che è nella versione della sì. vacca, con il concetto che ti sfugge, per cui è disposto a viaggiare in tantissimi stati. Quindi sì. il Texas, il Tennessee, il New Mexico, l'Idaho, l'Hawaii, l'Iowa, l'Ohio, pur di ritrovare questa vacca che è la libertà. Scusa, tu nel tuo pezzo, nella tua parte, sono tutte 2000. Sì, vabbè, comunque okay. Tu come ritornello hai Texas, Tennessee, New Mexico, io ho Idaho, Hawaii, Iowa, Ohio. Idaho, Hawaii, Iowa, Ohio. Senti, una curiosità mia, poi ti giuro che la faccio tranquillamente. Idaho, Hawaii, Iowa, Ohio, rispetto a Texas, Tennessee, New Mexico, so de strada o l'hai messi random? Cioè, così, ma questo è irrilevante. Davvero anzi, a maggior ragione, più sono sparpagliati da loro, più enfatizzi la voglia, il desiderio che ha questo cowboy di ritrovare questa vacca che è la libertà. Poi vanno bene, ci possiamo mettere Wyoming no, in più. No. Però lasciamo più cose metti in una canzone, più è difficile cantarla, di questo non lo capisci. Dai, vai, parti. Ai, tutto il giorno galoppo. Ai, senza mai fermarsi un po'. Che c'è scritto? Ma c'è scritto. Topo nomo nomo no topo nomo cono. Come, scusa? Topo nomo nomo no topo nomo cono. E che sarebbe? È un dialetto velerosa che enfatizza il momento del... il detto pelle rossa che enfatizza. Inarita su Radio Wombat. Questi erano i nostri tanto invidiati Lil Greg, chissà se mai verranno a trovarci. Io lo spero tanto. Tra l'altro abbiamo una foto... La foto che è altissimo uno, vabbè, ovviamente Greg, non sì. Lillo, è altissimo, giusto, ci confermi? Sì. In regia confermano. Vabbè. Non mi ricordo più assolutamente cosa stavamo dicendo. Io forse. Si diceva delle condizioni, bravissima, della risintetizzazione di queste due frasi. Le frasi erano caratterizzate da... diverso assortimento di sillabe, quindi le consonanti e le vocali erano distribuite in maniera diversa, perché chiaramente così è, laddove c'era una vocale avevamo una lettera, dove c'era un'altra consonante invece avevamo un'altra lettera. Questo ha creato degli spazi più o meno lunghi occupati dalla vocale, perciò in una situazione in cui ci sono due vocali e una consonante, la sillaba è molto lunga. Esatto. Allora, che cosa è questo che cosa fa scaturire però? Fa scaturire che queste frasi differivano per che cosa? Per un ritmo. Esatto, okay? Questo elemento della prosodia. E questi dati poi ci permettono anche di dire che il ritmo è necessario, ma soprattutto è sufficiente per discriminare fra due lingue, quindi è quello che basta per far sì che il bambino possa discriminare: questa è la mia lingua materna, questa non lo è. Poi ci sono sicuramente altre componenti che possono aiutare in futuro, piuttosto possono rafforzare questa consapevolezza, però questo è quello che è sufficiente per... E tutti questi esperimenti poi sono stati chiaramente fatti anche con adulti e... Insomma, vabbè, dipende, è un po' difficile da dire perché un adulto è difficilmente ignaro totalmente di una lingua, però grosso modo un inglese che non ha mai sentito parlare l'italiano e lo spagnolo o, che ne so, il tedesco, reagisce allo stesso modo di un neonato che comunque ha poca esperienza. Esatto, è questo proprio che ci scatenano l'ilarità al momento quando sentiamo un inglese, un tedesco, che ripetono una frase in italiano. Questa cosa a Firenze succede abbastanza spesso, tipo la parola gelato, invece che dire gelato, dovuta sì a un'interpretazione diversa delle singole componenti della parola, quindi le lettere, però se inserite in un contesto, in una frase, vediamo che quello che per noi ha una prosodia particolare, quindi un ritmo soprattutto e una melodia particolare, per l'inglese sarà molto differente, soprattutto la persona si sforzerà di ricalcare una prosodia, diciamo, tipica dell'italiano, che in realtà però non gli riesce, perché l'informazione che lui ha immagazzinato, l'inglese o il tedesco, è troppo più forte, per cui rimarrà sempre questo imprinting praticamente originario, naturale. Eh sì, ti è. Quindi... Frasi differenti per distribuzione delle consonanti e delle vocali significa frasi differenti per assortimento di sillabe, quindi significa che l'organizzazione temporale della frase è differente, cioè significa che le frasi differiscono per il ritmo. E questa ipotesi della discriminazione tra le lingue basata sul ritmo poi ha portato l'approfondimento di questa tematica, quindi con tanti vari esperimenti che ci hanno portato anche a dividere, come un po' si accennava la volta scorsa, no, come si è detto già la volta scorsa, la divisione delle lingue, vuoi dirlo tu che sei tanto brava, tipo inglese, olandese, polacco e russo sono lingue La differenza appunto sul ritmo, sono lingue con un isocronismo accentuale, esatto. Ovvero il ritmo, il ricorrere in maniera regolare di un ritmo e degli accenti, quindi l'inglese, l'olandese, il polacco e il russo sono lingue i cui intervalli tra un accento e l'altro sono grosso modo di durata simile o uguale. Ecco. Invece l'italiano, lo spagnolo sono tipo lingue, anche il romeno succede, anche nel romeno succede questa cosa, italiano, spagnolo e anche il rumeno generalmente, okay. Sì, sono lingue con un isocronismo sillabico, ovvero le sillabe hanno più o meno tutte la stessa durata, Il giapponese invece è una lingua a isocronismo moraico, proprio la mora, quindi l'unità sillabica. E quindi l'accento, diciamo, giapponese è determinato proprio da questo fatto. Ecco, un ritmo capito basato qual è la faccenda sillaba che tanto volevi raccontare già all'inizio della puntata, e poi noi che si sarebbe fatto finora. E che dire, quindi questa distribuzione e organizzazione di consonanti e vocali ha differenziato questa cosa qui, ma soprattutto, che dire, sulla, allora, sulla sillaba, sull'importanza della sillaba e del ritmo che dà al parlato e tutto quello che poi fa scattare l'argomento parola, chiaramente lo vedremo in futuro, anche perché la prossima settimana forse avremo una super ospite, ragazzi, questa non ce la leva nessuno, bomba. Possiamo proprio fare un piccolo inciso sulla cosa, siccome noi non ne avremo mai abbastanza di parlare di lingue, meccanismi di linguaggio, quest'altra settimana con ogni probabilità faremo una puntata bellissima sulla, diciamola proprio in maniera, riproduzione del suono. Che bello, non vedo l'ora. Siccome io e Nenia, oltre che essere due grandi linguiste, siamo anche due grandi soprani. Sicuramente. Almeno così ci è stato detto, poi in realtà noi siamo due grandissime persone. Noi ci fidiamo ciecamente di tutti i nostri maestri di canto. Esatto. Questo era una caccola che si muoveva nella narice destra. No, era il timbro. Sei il fischietto, quello pipì. È il timbro della Mariah Carey. Il timbro di fischio. E insomma, ecco, basta. Quindi tutto questo spazio che si prendono le vocali, ecco, e creano quella differenza nel parlato che sono importantissime. Basta, non so che altro dirvi, perché se vi dovessi leggere quest'altro esperimento, no, probabilmente te lo sentire il rumore dell'ambulanza che viene a prendermi. Neni, neni, neni. Si fa? Facciamo. Quindi spazio, allora premessina. Facciamo una premessa, esatto. Differenza, la differenza che è data dalla percentuale di vocali presenti in una frase, è stato testato anche questo, è stata sostituita la vocale con una V, ti prego, frase in inglese. The next local elections will take place during the winter. Mi sono scordata di dire che chiaramente la consonante era una C, era ovvio, okay. Però questo è il risultato, kv, kv, kv, kv, kv, kv, kv. Se lo facciamo anche lì con l'italiano. Ciana, sei un genio, abbiamo un ospite geniale. Io avrei una cosa da farvi sentire a proposito, che allora non è il detto fuggi da Foggia, ma non per Foggia, ma per i fuggiani che stanno a Foggia, ma è un cripto pugliese che lo nega. È lassù, io lo vedo, Foggia. Ma l'ho perso. Adesso lo capirete subito. Quanto lo devo dire? Qui comincia il territorio romano! Fermatevi! Non si passa! Chi siete? Barbari! Che cosa volete? Distruggere Roma! Dove passo io non cresce più l'erba, caro! Ma tu come ti chiami? Attola! Come? Attola! Come? Attola! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? A come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna! Potete malam! Potete malam! Kv, kv, kv, kv, kv. Alla faccia del kv. Qualcuno ci vuole dare un assegno di ricerca? Sì, soprattutto un assegno. Soprattutto un assegno. Poi, ci per farci cosa non ci interessa. Io andrei volentieri a insegnare kv, kv, kv, kv. Però a questo punto devi fare anche la giapponese. Perché la giapponese che... Ah no, l'italiana. Facciamo l'italiana. Dai, l'italiana, la giapponese la saltiamo. Mi metto in posizione Gruber. Le prossime elezioni locali avranno luogo in inverno. Kv, kv, kv, kv, kv, kv, kv. Mi sono intortata all'ultimo tutte queste consonanti qui insieme. Questo però ci fa, tutte queste due ci fanno capire che l'italiano di spazio vocalico ne ha abbastanza. Ne ha abbastanza ed è molto ordinato, direi. No. Cioè si presenta nelle stesse percentuali. Voglio rifare una puntata solo traducendo le frasi. Fantastico. Questa puntata mi è piaciuta un sacco. Ragazzi, dai, facciamo ascoltare un pezzetto. Sì, adesso un pezzo musicale, vero. Dobbiamo fare un po' in fretta oggi, però, sì. Perché? Ce lo vuoi dire tu? Perché stasera, però... andiamo a mangiarci una pizza, non ce ne frega niente. No, invece, il dovere radiofonico è sempre qui tra noi. Allora, stasera c'è una puntata di 8 Hertz molto particolare, dove ci sarà un live set, tutto elettronicoso, con un ospite che non vi dico chi è, ma se siete di Firenze o perlomeno bazzicate a Firenze l'avrete visto diverse volte in giro per la città a fare musica. Basta. Sì, infatti. Non dico nulla. Beh, adesso invece a proposito di musica abbiamo un pezzone. Quindi, aspetta, la cosa era, c'è questo live set dopo, quindi... Finiamo 5 minuti prima, proprio per consentire all'ospite di poter installare tutte le sue macchinette. Certo. E vi ho dato un grosso indizio con le e in tutto questo, sì, questo era un indizio, vabbè. L'aiuto da casa, capito? Va bene. Allora... Giusto, secondo, non era proprio un... Il primo che ha fatto noto data non era proprio un live, ma c'era la puntata con Filippo Paniti, sì. Che vi consiglio di riascoltarla perché è stata veramente... Era molto bella davvero, sì. Però piace a me, a te, a Nicola e a chi è venuto a farla. E a Nicola che è venuto a fare la puntata dopo. Però era meraviglioso. No, in realtà c'è un bel giro di gente che apprezza. E è una vitaccia. Che dire, voi invece al Gianni provate ad apprezzare questo. Apprezzatevi questo. Gianni Meccia è un mitico. Secondo me al fuoco alle polveri lo conosco. Scusate. Odio tutte le vecchie signore. Non posso vedere le vecchie signore. Quando salgono sul tramvai ti combina mille guai. Spinte, calci, borse in faccia e gomitate. Ah, non le posso proprio sopportare mai. Ma io mi ribello e vi pesto un callo. Odio tutte le vecchie signore. Non posso vedere le vecchie signore. Sulla spiaggia la cicciona nel costume si dimena e la secca fa la morte ricordare. Ah, o magari si potessero annegare. Aiuto! Vi sta bene, ciccione, befane. Siete tonde straripanti, magre, secche, senza denti, maliziose, prepotenti, velenose ed altro ancora. Odio tutte le vecchie signore. Non posso proprio soffrire le vecchie signore. A passeggio tutto il dì con il fido cagnolino che in silenzio va bagnato piano piano. Bobby, se in leone si potesse trasformare. Cagnaccio bastardo. Odio tutte le vecchie signore. Non posso vedere le vecchie signore. Non le posso soffrire. Ecco, quando vanno al parrucchiere e le chiome si fanno nere ed i baffi pur si fanno ossigenar. Però ci sono delle vecchie signore che sono proprio degli angeli di bontà. A loro tutte io domando umilmente perdono e soltanto a loro in gran segreto confido che... Odio tutte le vecchie signore, non posso vedere le vecchie signore. Girate, mi allargo, altrimenti mi metto a gridar. Vi odio! Un pezzo molto, come dire, democratico, rispettoso della terza politica età. Politically correct. Però d'altronde... Possiamo anche smetterla, è un pezzo degli anni del 1960. Tondo. Sì, preciso, le bravo. Vecchie signore che... Lui è lo stesso di quello che fece la canzone Barattolo, bambina patatina, esatto. Il maiale schifoso, l'abbiamo detto. Sì. Quella canzoncina è abbastanza viscida, ma qua no invece. E qua poi la copertina di quel disco in realtà è una cosa tenerissima perché c'è lui con la manina così che tiene questa signora seduta un po', in sardo si dice alla bobidda, come quando sali nel motorino però con le gambe tutte e due da una parte, ok? Come per... andate nel motorino? No, le signore nei paesi, sì. Ora sì, che magari a 80 anni non se ne mica puoi aprire le gambe, no, sederti, ti immagini, ecco. E invece allora con tutte le due gambine da una parte... E si dice alla, a Sabobidda. A Sabobidda. Ecco, e c'è questa signora un po' a Sabobidda, però seduta sulla mano di lui, piccolina piccolina. Okay. Quindi si guardano negli occhi con tanto amore, come solo gli anni 60 sanno, esatto, sanno esprimere. Poi lei sale in bicicletta alla bersagliera, cade. Chiaro, no, perde il sellino e succede una tragedia. E scopre nuovi mondi con questa. Yeah, con questa passiamo subito all'agenda della settimana, che vede un'agenda un pochino leggerina questa settimana, o sbaglio? Ci si riposa a Firenze, cosa fate? Che la si batte la fiacca, oppure si va tutti al... CSA Next Emerson. A ridaglia ogni volta. No, perché in realtà forse c'è anche qualcosa negli altri posti, ma non ce l'ho a portata di mano. Ma so che c'è questa cosa interessantissima. È una giornata di... è la Palestra Popolare di San Pietrino, che è presente anche nelle interviste fatte nelle interviste a nord, nei passaggi a nord-ovest. Ho il gobbo che mi suggerisce. Giusto, perché... passaggi a nord-ovest, che non l'abbiamo detto però prima nel palinsesto, perché in realtà non è aggiornato, ma abbiamo anche questa nuova trasmissione. Ah, ma infatti ecco, io lo cercavo lì. Ecco. Esatto, questa nuova trasmissione che parla un po' della situazione... socio-politico-economica e quant'altro della zona di Firenze Nord, della piana in generale. Si potrebbe chiamare interviste dal basso, cioè tipo il microfono ti sta qui sotto allo sterno. Mi viene in mente Natalino Balasso quando c'era la bandaia. Sì, esatto, proprio quello. E invece no, CSA Next Emerson, sempre a Nord-Ovest. La serata si chiama, è molto carina, Montanti dal basso. Allora, 1 aprile 2017, festa della Palestra Popolare di San Pietrino, fa la grande assemblea nazionale del coordinamento delle palestre popolari. Accidenti. Quindi, durante tutta l'assemblea, vabbè, poi ci sono, insomma, si parlerà un po' di... Allora, ci saranno gli incontri serali a che ora? Alle 21. Quindi... andatevela a vedere nel sito, perché sto facendo una fatica enorme. No, diamo le informazioni, quelle chiave. Queste erano troppo dettagliate, non interessano a tutti. 17 incontro tutti insieme qui appassionatamente. 18:30 allenamento aperto di break e basta. Beh, perché c'è scritto un monte di roba, ma quando vai a riassumere come nei libri di storia, no? Ore 19:30, apericena sociale. Ore 20, spettacolo con la compagnia di cabaret e collettivo clown di Milano. Ok, pensavo a un altro cabaret che conosco e... ti piacerebbe, cara mia. Stavo già gelando il sangue. Guarda. E poi dalle 21:30 in poi incontri di pugilato. Questo è quanto. Quindi interessante... E poi la serata musicale a seguire sarà la serata di Joker Smoker. Mi piace dirlo, Joker Smoker, dirlo un po' così, con la bocca così. E basta, non ho altre informazioni, perciò veramente? Nemmeno io nel prossimo futuro. Ma che fa Firenze? Dorme? Ma Firenze, ragazzi, ma io non posso distrarmi un attimo Firenze. Che qui subito... Vabbè, questo è quanto. Andatevi a informare comunque nei vari siti, dei vari posti che amate tanto. Esatto, per cortesia non andate a vedere Litfiba, mi prego. No, dai, anche no, basta, ho via. Ho visto la città tappezzata con i nuovi... Andate a vedere i posti occupati che hanno bisogno di gente, di vivere, di sentire che gli vogliamo un sacco di bene, forza, su. Esatto, un'alternativa un po', ragazzi, via. Non andate a vedere l'Arco di Palmira, per favore, che palle, è pieno di spiri ovunque. Ci sono i poliziotti nelle scuole in centro, oggi gironzolano come niente fosse. Che cos'è questo? Io non so nulla. Ecco, io, cioè, nel senso. Piazza della Signoria. Sì. Hanno messo l'arco di Palmira, sì, la riproduzione dell'arco, sì, di Palmira che venne buttato giù dall'Isis nel 2015-13, non mi ricordo. Esatto, 15. Sì. Hanno, siccome c'è il G7 Perfetta. Della cultura, che hanno fatto simbolicamente, hanno messo in piazza questa riproduzione dell'arco. Ma lo so solo io, allora ho letto una notizia di 10 anni fa per sbaglio, no, ok? No, no, perché c'è il G7 della cultura, perché prima era il G7 dei bombardamenti, delle guerre, della catastrofe, ora siccome la gente si iniziava a rompere il cazzo... Esatto, le lacrime di coccodrillo! E quindi ci sono gli sbirri in giro per il centro e anche nelle scuole, agghiacciante. Non si poteva dire questa cosa, la dovevo dire in maniera più carina. Possiamo anche fare un attimo... Devo dire, no, l'educazione, io lo dico, sessuale no, certo, l'educazione militare sì, mi suggerivano, esatto, stavo cercando ancora un sinonimo, un'altra formula, l'educazione militare sì, capito? Ecco, quindi genitori, occhio, orecchie aperte, sapevatelo, sapevatelo, esatto. E basta, okay. Questo è quanto e vi lasciamo così, dopo neni neni, ninu ninu ninu, quelli fanno ninu, bene. Scappiamo, ciao. Scappiamo, ci sentiamo giovedì prossimo. Elimina le tracce. Eliminate le tracce oppure chiedete. Forse il podcast non lo caricheremo. Esatto. Chissà, esatto. Forse taglio l'ultimo pezzo. No, invece lo lascio. No, lasciamocelo, ma tiro su anche il volume. Si può anche dissentire, no, sto mondo. Oh, che cavolo. Allora, bene. No, a parte i giochi, a parte gli scherzi. Sì, basta questo. Basta. Ciao. Linea Nautodac. Linea TG7. Linea TG8. No, ma Mentana, ragazzi, ma quando è che si fa una bella maratona di Mentana? Lascia fa, no, via, via, sfumo qui, bello. Guarda, sfumo le voci. No. Dopo 10 anni ho rivisto l'amico Bob, con una giacca di cuoio con scritto su, giorno per giorno io vivo, io sono un bot, era firmato da Bob, uno dei mob, uno dei mob, io non potevo capire e lo mandai. Dimmi che cosa vuol dire uno dei mods. Lui mi rispose domani, vieni vedrai, porta la donna che ami e ballerai. A Liverpool c'era mille dei mods, il loro capo era l'amico Bob. Erano mille ma i rockers in più, erano forti, più forti dei mods. Di noi, vidi qualcuno cadere da eroe, poi vidi Mary lontano da me, venni colpito, la testa girò, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Era finita la festa e mi rialzai, yeah, e vidi Mary morire e la baciai, vidi morire pian piano l'amico Bob. Ora mi dis anche tu, tu sei dei mods, uno dei mods. A Liverpool c'era mille dei mods, yeah, yeah, yeah.